che è difficile pensar che già non estás aquí, sentir che te perdi. Sabes que lo haré por ti. Te amo.